24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 16 minuti, anzi 17, ben ritrovati a 24 mattino, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666 del momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Infortunata, dillo anche. No, infortunata, no, ti ho visto di corsa. Per una volta sei entrata tu di corsa all'ultimo momento. Ma non diciamo sciocchezze che ero qua dietro, guarda, mi ha anche tirato precisina da ore qua. Ma anche tirato la cuffia, mi sono fatta male, non ero neanche assicurata stamattina. Adesso lo dico al signore di Gerarpella. Meno male che la viabilità era un po' lunga, hai preso fiato, diciamo la verità. Guarda che sono, come tutti sanno, una grande atleta e non c'è bisogno che si sottolineino queste cose. Un giorno ci dirai cos'è la zumba. Comunque andiamo avanti. Avanti e parliamo di assicurazione. Allora, perché abbiamo scelto di parlare di questo argomento questa mattina? Intanto non vogliamo mandare di traverso la vacanza a quelle poche famiglie che quest'anno riusciranno ad andare, no, in realtà speriamo che siano molte, anche a prescindere, nonostante le difficoltà economiche, molte famiglie riusciranno a ritagliarsi qualche giorno di riposo, dovranno lasciare la propria casa per raggiungere la località di vacanza prescelta e c'è un aspetto al quale molto spesso non si pensa per scaramanzia, perché si è convinti che a noi queste cose non ne capitano mai, come per esempio la sorpresa di trovarsi la casa svaligiata al nostro ritorno, oppure che ne so, si è rotto un tubo e abbiamo allagato l'appartamento al piano di sotto. E allora si va in vacanza. Secondo l'Eurisco le case assicurate sono proprio poche, e muovendo da questa indagine Genertel ha voluto occuparsi di questa situazione. Genertel è la prima assicurazione online del nostro paese, di proprietà al 100% del gruppo Generali, e l'obiettivo è stato quello proprio di avere un quadro della situazione, capire che aree di mercato presidiare con maggior forza e soprattutto tentare di capire perché le famiglie italiane non assicurano relativamente a determinati danni la propria casa. Buongiorno a Davide Passero, che di Genertel è l'amministratore delegato, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, come si è mossa la vostra iniziativa? Perché avete voluto, è chiaro che, come dire, vendere assicurazioni è il vostro mestiere, perché vi siete focalizzati quest'anno su questo aspetto, Passero? Ma diciamo che sì, assicurare è il nostro mestiere, e quello che è abbastanza intrigante è il fatto che gli italiani sono i maggiori possessori di case in Europa. Quasi 3 italiani su 4 posseggono una casa, eppure il livello di assicurazione è il più basso d'Europa. Quindi c'è una discrasia, no, fra la quantità di investimento, anche emotivo, che gli italiani fanno sulla casa, e poi la quantità di protezione che poi ci mettono una volta acquistato il bene. Ecco, questo è un gap che in qualche modo credo che gli assicuratori abbiano anche, come dire, un compito in qualche caso sociale, oltre che fare evidentemente affari e business, è quello di sviluppare un'educazione in questo senso. Ci si assicura poco in media, figuriamoci se questo è il nostro pensiero poco prima di partire per le vacanze. Però voglio dare questo dato: su un campione di 4.500 in famiglie viene indicato che oggi solo il 26,5% dei capi famiglia italiani ha una polizza assicurativa della propria abitazione. Vi siete chiesti come mai accade questo, Passero, anche se è un tema che è stato a lungo analizzato nel nostro paese? Da cosa dipende? Scaramanzia? Viene ritenuta una spesa inutile? O è un problema anche del mondo assicurativo, che viene percepito come sempre non affidabile, poco trasparente? L'assicuratore ci corre dietro con una polizza standard, poi però nel momento del bisogno la polizza non ci copre. È assolutamente tutte e due le cose. Da un lato c'è, come dire, una grande area di rimozione, nel senso che l'italiano mediamente sa che dovrebbe assicurarsi, poi paradossalmente questo avviene molto sulla base di emotività. Avviene se al mio vicino è successo qualcosa, allora lì scatta la cosa, no? Allora sì che mi assicuro, oppure aumenta la percezione di bisogno di sicurezza perché nasce un figlio, perché mi sposo, e allora anche lì scatta. Se non scatta questa molla, c'è questo bisogno che però rimane latente. Certamente gli assicuratori, come dicevo, hanno una responsabilità anche per il fatto che non spesso poi, come dire, l'offerta assicurativa è anche facile da comprendere ed accessibile, insomma, no? È un po' come se per acquistare la macchina uno dovesse andarsi a leggere il libretto delle istruzioni, non lo fa nessuno in verità. Quindi rendere accessibile anche e far capire in modo, come dire, trasparente che cosa uno sta acquistando, e soprattutto avere la garanzia che poi l'assicuratore ci sia al momento del bisogno, direi che questo è proprio come dire, una responsabilità degli assicuratori. Adesso affrontiamo, Passero, con lei anche la cosiddetta mappa del rischio per capire qual è la situazione nel nostro paese, ma per esempio qualora avessimo stamattina solleticato l'attenzione dei nostri ascoltatori che magari sono in procinto di lasciare chiusa la propria casa per un lungo periodo, dico almeno un mese, le compagnie di assicurazione sono disponibili ad assicurare per esempio contro il rischio furto di questi periodi per un lasso di tempo così breve? Perché molto spesso si pensa anche che la compagnia non è molto flessibile in questi termini. No, sì, ma per motivi strettamente tecnici, insomma, assicurare normalmente l'assicurazione con il furto è un'assicurazione a completamento dell'assicurazione dell'abitazione, quindi, come dire, dovrebbe avere un orizzonte temporale, come dire, un po' più ampio, no? E questo, altrimenti, come dire, andiamo a assicurare un bisogno temporaneo, mentre tipicamente il bisogno assicurativo dovrebbe avere, appunto, come dire, un respiro un po' più lungo. Comunque, certo. Noi tipicamente sull'assicurazione sulla casa abbiamo contratti che durano un anno, quindi senza nessun tacito rinnovo, ma un anno, ecco, diciamo che uno è tranquillo sia quando è in vacanza sia quando è poi in città. Magari, soprattutto se si è proprietari di un'abitazione che si lascia chiusa spesso per ragioni di lavoro, non solo naturalmente per ragioni di vacanza. Quali dati abbiamo? Le tipologie di assicurazione poi variano proprio sulla destinazione, no, della casa, perché ci sono assicurazioni per la prima casa che hanno determinate coperture tipicamente di chi ci abita, per chi ci abita, poi la seconda casa oppure la casa data in affitto, insomma tutte queste destinazioni d'uso cambiano i bisogni assicurativi, quindi cambiano anche il tipo di coperture che vanno selezionate. Continuiamo ad esaminare questa indagine di Eurisco dalla quale avete mosso appunto anche la vostra nuova proposta commerciale. Quali dati abbiamo sui rischi di furto o danni per le abitazioni, dove si trovano maggiormente, in quali aree ci sarebbero maggior necessità di coprirsi dal punto di vista assicurativo? In sostanza, qual è, Passero, la mappa del rischio in Italia? Ma dunque, la mappa del rischio in Italia dice che alla fine nell'assicurazione, soprattutto nei grandi centri, c'è il tema del furto che per motivi proprio di ambientazione sociale, no? può essere più diffuso. Naturalmente poi vanno distinte le abitazioni monofamiliari da quelle condominiali, dove nell'ambito condominiale evidentemente vi sono poi coperture assicurative che partono dal condominio, per quale l'assicurazione privata dovrebbe comunque andare ad integrazione. Quello che credo che sia abbastanza interessante è se la quantità di assicurazione è un sinonimo di percezione del rischio, vediamo che poi le coperture assicurative sono molto più presenti al nord del paese che non al sud, e per cui diciamo che nel Friuli Venezia Giulia arriviamo ad avere 2 assicurati su 3 proprietari di casa, cosa che scende drammaticamente mano a mano che ci si sposta verso il sud della penisola. Questo non credo che sia poi tanto legato al fatto della vera presenza di rischio, ma quanto più legato ad abitudini, come dire, di acquisto e di consumo, e anche a quell'elemento scaramantico che forse in alcune zone del paese è più presente che in altre. Infatti, leggevo anche che per esempio le polizze assicurative nei settori che abbiamo citato sono concentrate soprattutto nei centri urbani di dimensioni medie e grandi, 100.000 e 500.000 abitanti, in cui abbiamo una diffusione di circa il 32,5%, seguono poi quelli di piccolissime dimensioni, e per i centri molto grandi invece si misura una bassa diffusione, il 18,8% della popolazione assicurata, Passero. Perché qui è più che altrove presente il tema dei grandi condomini, quindi tipicamente c'è una polizza condominiale e il singolo pensa di essere coperto completamente dalla polizza condominiale, poi anche qua noi raccomandiamo, ma ovviamente è una raccomandazione che ha un senso, quella di integrare la copertura condominiale che copre aspetti importanti ma non totalizzanti con una polizza individuale, perché per esempio i danni al contenuto dell'abitazione piuttosto che danni interni non coperti dalla polizza condominiale o a integrazione della polizza condominiale sono sempre piuttosto opportuni. Però certamente nei grandi centri urbani la diffusione dei condomini è tale per cui, come dire, c'è la sensazione, anche senza andare ad approfondire, che comunque queste polizze condominiali siano la soluzione a tutti i problemi della, dell'assicurazione sulla casa. Passero, andiamo un po' ai costi. Voi avete l'assicurazione online, per cui è un canale che abbatte notevolmente le tariffe. Questo lo abbiamo preso in questi anni in cui anche questa modalità di vendita delle polizze si è notevolmente allargata nel nostro paese, anche se in realtà abbiamo ancora notevoli spazi di crescita e anche molti, come dire, ostacoli mentali da parte di molti consumatori da abbattere. Ma a parte questo, è chiaro che dipende dalle caratteristiche delle abitazioni, dal posto in cui si abita, ma in media è una spesa così elevata per una famiglia media? Un'assicurazione. Dunque, uno dei temi, e questo è anche interessante, è che quando poi uno avvicina l'assicurazione sulla casa, quello che troviamo nei confronti appunto di questi assicurati o questi nuovi assicurati è la sorpresa del rapporto costo-beneficio, cioè di quanto poco sia il premio in rapporto al valore del bene assicurato, no? Quindi c'è un'aspettativa, una delle remore è chissà quanto costa, poi alla fine si scopre che costa molto meno di quanto uno magari sarebbe anche avrebbe anche in testa di e tra l'altro Passero, io sto chiudendo, non mi ero neanche accorta che stavo chiudendo il tempo a mia disposizione. Un'ultima cosa, possiamo trattare con l'assicuratore, possiamo personalizzare al massimo la polizza? Assolutamente sì, noi sul nostro sito offriamo questa offerta differenziata, si va sul sito e si possono fare tutte le simulazioni possibili, togliendo, aggiungendo garanzie, modificando i massimali. Benissimo. Con la massima flessibilità e in termini di costo si parte, rendendolo accessibile, si parte da 1,50 € al metro quadro come costo di assicurazione, questo per dare un'idea. Grazie. Grazie molte, facciamo grazie fare qualche prova a qualche consumatore, poi le diciamo naturalmente com'è andata, ma soprattutto io vorrei anche dire andate tutti quanti in vacanza tranquilli. Alessandro, anche sì. Tu lunedì prossimo. Salva Danaio. Torniamo a parlare dei prezzi delle case perché abbiamo un rapporto recente, quello di Nomisma di settimana scorsa, che stanno continuando. Esatto. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, le notizie in primo piano: sulle intercettazioni servono dialogo, senso della misura e regole il più possibile condivise, lo ha chiesto il capo dello Stato Giorgio Napolitano intervenendo ieri sul tema giustizia. Poi una stoccata a Di Pietro che lo aveva criticato per la legge sulla sicurezza. Chi mi critica, ha detto Napolitano, non conosce la Costituzione. Il settimanale L'Espresso ha pubblicato sul suo sito internet le registrazioni fatte dalla escort Patrizia Daddario e di sue conversazioni con Berlusconi. Nessuna replica ufficiale del Premier, ma in una nota il suo avvocato Ghedini bolla le registrazioni come materiale senza alcun pregio, del tutto inverosimile e frutto di invenzione. Ne parleremo tra pochissimo. La cronaca: un'impiegata di 35 anni di Parabiago in provincia di Milano ha ucciso il figlio di 4 anni. A scoprire la tragedia sono state la madre e la sorella della donna. La madre, che pare soffrisse per depressione, è stata arrestata. Infine, era soprannominata il Grillo Cristina Castagna, 31enne alpinista vicentina, diventata un'esperta degli 8000, è morta in Pakistan scendendo dal Broad Peak. L'alpinista è scivolata in un crepaccio. Prima di partire aveva scritto: se mi accadrà qualcosa, lasciatemi dove la montagna mi ha chiamato a sé. E dunque alle 8:33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come avete sentito, insomma, ampiamente anche dalla rassegna stampa, gli stralci di voce, le intercettazioni, o meglio le conversazioni che ha registrato Patrizia Daddario, che sapete è la escort barese, che dice: ho passato alcune notti a Palazzo Grazioli, tra l'altro col Presidente del Consiglio, sono state pubblicate con un mare di reazioni dal settimanale L'Espresso. Sono state pubblicate non i resoconti, ma gli audio veri e propri sul sito internet, che è andato ovviamente in tilt. Da una parte ne pieno di giornali, spazzatura, fango, se avete sentito anche cos'è che ha detto in una nota l'avvocato Ghedini. Ne parliamo con Marco Lillo dell'Espresso. Buongiorno Marco. Voglio anche salutare Stefano Folli, che è editorialista del Sole 24 Ore. Stefano, buongiorno. Partirei da Marco Lillo, anche perché sono state pubblicate sul tuo giornale, ma anche perché Marco Lillo, insieme a Peter Gomez e Marco Travaglio, dunque un libro a sei mani, avete scritto un libro dal titolo emblematico Papi, edito da Chiare Lettere, un libro che tra l'altro oggi è duramente attaccato in un'intera pagina da Filippo Facci sul Giornale, un libro che riassume tutto il fango gettato addosso al Premier, leggo dal Giornale, in cui si maschera da problema politico fatti privati per vendere copie sulla pelle di Berlusconi, una lettura che è una concorrenza a Eva 3000. Insomma, Lillo, la domanda è questa, secca: perché bisognerebbe pensare che quello che ha pubblicato l'Espresso non sono fatti privati in audio, ma un fatto politico di cui discutere? Almeno per tre ragioni. La prima, perché il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha mentito agli italiani più volte su quello che è accaduto quella sera, e quindi pubblicare l'audio integrale che dà modo agli italiani di sapere finalmente cos'è accaduto è un atto dovuto per un giornalista che dovrebbe appunto porre ai propri ascoltatori o lettori di fronte i fatti e quindi la verità. Secondo punto è perché ha mentito Berlusconi, perché quello che è accaduto quella sera è realmente imbarazzante per un Presidente del Consiglio. Ricapitolo a beneficio dei telespettatori: era il 4 novembre, la sera delle elezioni negli Stati Uniti di America, momento storico, svolta nel mondo, primo presidente nero mulatto che dir si voglia della storia, Obama, quindi serata importantissima per tutto il mondo, compresa anche l'Italia. Quella sera il Presidente del Consiglio era invitato dalla Fondazione Italia USA, un'istituzione antica che ha quella sera organizzato una serata proprio per le elezioni allo Spazio Etoile di Roma, a due passi da Palazzo Grazioli, in modo che il Presidente del Consiglio, come aveva annunciato, possa essere presente, e quindi essere presente anche al saluto dell'ambasciatore in Italia degli Stati Uniti, Richard Spogli. Quindi una serata importante. Quella sera invece Berlusconi non si presenta, e appunto scopriamo adesso che si trovava a Palazzo Grazioli, come già raccontato da Patrizia Daddario, ma da lui smentito, a fare ben altro. I particolari di questa serata, appunto, svelati dall'Espresso ieri con questi audio, che voglio ricordare sono stati uno scoop non mio in realtà, ma di un collega, Antonio Massari, molto bravo. Sì. Ecco, questi audio ci consegnano l'immagine di un Presidente del Consiglio che io definirei grottesco, perché ci raccontano di un Presidente del Consiglio che appunto si trattiene sul lettone di Putin con una prostituta invece di andare a rappresentare il suo paese in una sede. Ma voglio dire, qualcuno ha detto ma che c'è, a parte che le cose erano state scritte, ora ci sono gli audio, ma non c'è nulla di penale, cioè è un voyeurismo nei fatti privati di una persona che chiaramente è una persona pubblica, una persona di potere. Questa obiezione io potrei anche coglierla se il Presidente del Consiglio, di fronte alla pubblicazione delle prime indiscrezioni su quello che è accaduto quella sera, di fronte all'affermazione di una ragazza che era appunto questa Daddario, che è uscita fuori con un'intervista al Corriere della Sera raccontando queste cose, avesse ammesso: sì, è vero, però sono miei fatti privati, e poi avrebbe dovuto dare comunque delle spiegazioni su perché quella sera ha preferito trattenersi a Palazzo Grazioli piuttosto che andare, ripeto, a questo incontro della Fondazione Italia USA. Così avrebbe dovuto agire un Presidente del Consiglio serio. Invece il Presidente del Consiglio ha negato, ha detto: non ricordo nemmeno la faccia di questa signora, e continua a negare tuttora, perché il problema è che è talmente inaffrontabile questa realtà che l'unico modo per affrontarla da parte del Presidente del Consiglio è negarne l'esistenza. Ancora ieri l'avvocato Ghedini continua a raccontare agli italiani una balla colossale dicendo: queste registrazioni sono inverosimili. È chiaro che in nessun paese del mondo sarebbe sostenibile una linea di difesa del genere, cioè di fronte a un audio pubblicato dal settimanale L'Espresso si sarebbe imposta una risposta, anche perché, ripeto, il Presidente del Consiglio fino a ieri negava. Beh, la risposta è stata in quel comunicato, in quella nota, poi si vedrà, credo che ci saranno degli strascichi ovviamente, vista la durezza della nota che preannuncia qualcosa. In ogni caso, Stefano Folli, tu oggi ne parli analizzando, come sempre nel punto sul Sole 24 Ore, la situazione politica, una situazione di certo è un clima che tu definisci malsano, perché? Beh, insomma, è meno che si possa dire. È evidente che quando emergono rivelazioni di questo genere si mantiene nel paese un clima molto negativo per le istituzioni, non c'è dubbio, questo è, mi sembra evidente. E le preoccupazioni del Presidente della Repubblica, che si sono manifestate più volte in queste settimane, ancora ieri, riflettono questo clima. È chiaro che poi molte cose si intrecciano su molti piani diversi. Da un lato c'è il percorso di queste rivelazioni, che vedremo quale sarà, naturalmente, quali effetti avranno. Io prevedo che Berlusconi manterrà la sua linea finché potrà, manterrà la sua linea di non voler riferire in Parlamento, di non voler un confronto pubblico su queste vicende. Ma però c'è anche però dell'altro, cose che non si intrecciano in modo diretto con questa vicenda dei nastri, ma che in qualche modo toccano un po' la sfera profonda, importante della libertà di stampa, la questione delle intercettazioni, cioè come regolare tutta la materia delle intercettazioni, è un tema su cui ci sono state molte polemiche. Ieri Napolitano vi ha fatto riferimento chiedendo aveva chiesto già al Parlamento di un rinvio, di riflettere meglio su questa legge sulle intercettazioni che è all'esame delle Camere, ha chiesto insomma di arrivare a una qualche forma di soluzione condivisa, e questo proprio perché è evidente la preoccupazione che proprio questo clima malsano, questo clima di inquietudine che c'è nel Paese a livello istituzionale non possa produrre poi degli effetti di destabilizzazione, possa produrre dei vuoti che possono essere molto pericolosi. Io temo che questa soluzione condivisa sia difficile in questo momento per tante ragioni su quelle di cui stiamo parlando, e questo naturalmente determina un certo nervosismo in vista anche dell'autunno. Forse sì, si era arrivati a una situazione di calma, se si può dire, Stefano, rispetto a quello che era successo nei giorni scorsi, sì, poi chiaramente questo... Molto effimera però. Molto effimera. Forse il G8 aveva in qualche modo... Sì, vabbè, ma il G8 è stato un po' un'eccezione, è stata un'isola sicuramente positiva e felice per il Paese, ma troppo circoscritta, troppo legata a circostanze eccezionali. Il clima del dibattito politico nel Paese rimane... Ti chiedo, Stefano, visto che tu sei stato anche un importante direttore, sei abituato quotidianamente a eventuali scelte del genere, la questione della pubblicazione, avresti pubblicato, pubblicheresti materiale del genere, ancorché, ricordiamo, è secretato, almeno questo il procuratore Scelsi aveva detto, cioè queste cassette, quindi sicuramente sono state recuperate con qualche metodo così un po' ortodosso, ma i giornalisti fanno anche il loro lavoro così. Io rispetto il lavoro dei colleghi dell'Espresso e di Repubblica, indubbiamente. E sul punto specifico dei nastri di cui stiamo parlando adesso avrei avuto qualche dubbio. Avresti avuto qualche dubbio. Marco Lillo, oggi il Riformista secondo me fa il titolo più azzeccato, perché è il dato di fatto, titolo in prima pagina, in camera da letto. Poi si può discutere se tu dici appunto è giusto perché secondo te Berlusconi ha mentito su alcuni punti e quindi è giusto far sapere con un audio che peraltro Ghedini contesta, ma insomma queste sono cose che si vedranno. Però in camera da letto, lì un po' siamo finiti, questo è innegabile, voglio dire, c'è una certa dose di voyeurismo c'è in tutto questo, no? Sì, voglio dire, siamo finiti in camera da letto portati lì da una prostituta che è stata invitata a entrare lì dal Presidente del Consiglio, che i servizi di sicurezza non hanno perquisito, probabilmente perché... Beh, su questo c'è da discutere, la portata, chi l'ha portata poi non è proprio lui, insomma, è l'amico. No, che, insomma, è stata introdotta, però ecco, dagli audio si comprende che l'atteggiamento di Berlusconi, almeno a sentire quello che dice la stessa Daddario al telefono subito dopo a Tarantini, che ride e quindi conferma, è appunto quello di una ragazza che si aspettava 5.000 euro in una busta gialla. Poi sappiamo che l'altra amica che l'ha accompagnata ha ricevuto invece una busta da 10.000 euro dopo essere stata a Villa Certosa, insomma buste che volano da 5-10.000 euro. Il Presidente del Consiglio evidentemente in alcuni casi le consegna, in altri probabilmente potrebbe almeno immaginare quello che accade prima e dopo le sue serate con queste ragazze. Voglio dire che i risvolti pubblici sono veramente tanti. Allora, al di là di questo aspetto della menzogna, che torno a sottolineare è fondamentale per un uomo politico in qualsiasi paese del mondo tranne che in Italia, dove il Presidente del Consiglio può dichiarare a chi io non ho mai pagato una donna, quando l'Espresso ha pubblicato appunto notizie di bonifici da 50.000 euro pagati a Virginia San Just, quando tutti i giornali italiani hanno parlato di questa busta da 10.000 euro a Barbara Montereale mai smentita. Quindi diciamo, noi viviamo in un'assenza di verità, primo aspetto pubblico. Secondo aspetto pubblico, non dimentichiamo che questo è il governo che voleva punire con la galera, con l'arresto, chi è l'utilizzatore finale, per dirla alla Ghedini, no? Cioè colui il quale va con una prostituta. È chiaro che se il Presidente del Consiglio stesso si trattiene con una prostituta consapevolmente, questo dovrebbe dircelo. No, infatti, questo però è il punto fondamentale. Se c'è stato qualcosa, ma è stato con una persona che viene presentata come un'amica, è un'altra cosa. Faccio una riflessione. L'atteggiamento che ha il Presidente del Consiglio rispetto a questa ragazza conosciuta la sera stessa, che si trattiene a Palazzo Grazioli, il tipo di telefonata successiva, io adesso non voglio dire, poi gli italiani, appunto, grazie agli ascolti che potranno fare sul sito dell'Espresso, si faranno un'idea. Sì. Ecco, io ho la mia, voi avrete. No, ma questo è chiaro. Il punto è, c'era una legge in Parlamento che puniva, ripeto, i clienti delle prostitute e puniva le stesse prostitute. Ora, è vero che soltanto in luoghi pubblici, perché appunto. Sì. Ma in italiano la prostituzione preoccupa non come forma di sfruttamento della persona, ma probabilmente solo come forma, diciamo, di inquinamento delle strade. Ecco, però al di là di questo aspetto c'era una legge che è stata ritirata dopo il caso Bari. Ora non possiamo quindi fermarci prima della camera da letto, quando nella camera da letto si sta consumando un atto che secondo il governo dovrebbe diventare addirittura un reato in futuro. Allora io Marco mi devo fermare, che devo dare il traffico e poi cambiare tema. Staremo a vedere. Qualcuno dice si temono nuove foto, si temono nuovi colpi bassi detti da una parte o nuove inchieste dette dall'altra. Insomma, staremo a vedere come si profila quest'estate. Intanto ringrazio Marco Lillo, giornalista dell'Espresso. Voglio ricordare il libro Papi, uno scandalo politico, edito da Chiare Lettere, scritto con Gomez e Travaglio. Così come ringrazio Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, si legge oggi sul Corriere: maxi sistemi, schedine aziendali in regalo. Insomma, c'è la caccia dal 6 da 100 milioni, Super Enalotto. Oggi c'è l'estrazione. Ieri mi ha incuriosito questa notizia, questa intervista che ho letto a Ennio Perez, che è tra l'altro nostro ospite. Alla fine dell'Ottocento, l'Avanti, il giornale dei socialisti, si rifiutava di pubblicare l'estrazione del lotto. I lettori protestarono, quindi dovettero tornare sui propri passi, ma anziché scrivere estrazioni del lotto, scrissero la tassa sugli imbecilli. Ennio Perez, buongiorno. Buongiorno. Lei è matematico enigmista, è d'accordo, è una tassa sugli imbecilli, una formula un po' dura. Un po' pesante. Un po' pesante. La chiamerei la tassa sulla speranza. La tassa sulla speranza. Quante sono le possibilità di fare 6? Ma sono questo... è stato detto, ridetto, 622.614.630. Cioè una su 622.614.630. Una probabilità bassissima, molto più bassa che la Terra venga investita da un meteorite e avvenga la fine del mondo. meno male. Però oggi Giulio Giorello, altro filosofo della scienza, scrive sul Corriere della Sera, come diceva Ian Hawking, uno dei più brillanti esperti internazionali di logica: chi acquista una schedina compra non solo la remota di possibilità di vincere tanto denaro, ma anche un'emozione, una fantasia. Insomma, lei fa il matematico e dice non giocate sull'onda dei numeri, le statistiche sono contro. No, ma io voglio dire, è chiaro che giocare dà un'emozione e quindi chi riceve questa emozione deve essere anche disposto a pagarla. Chi appunto gioca a un gioco in denaro o il Superenalotto o tanti altri giochi che vengono offerti, praticamente si iscrive al club dei sognatori, no? Insomma, quindi, e paga la quota per la tessera, insomma. Però non c'è niente di male, ma il male comincia quando uno invece di una tessera se ne compra 10.000, 20.000. Ah, beh, sì, quando diventa una malattia. Resti con noi, Ennio Perez. Io voglio salutare un ospite che ringrazio molto, l'ospite dire popolare poco, che forse la schedina l'ha già giocata, non lo so. Lino Banfi, buongiorno. Buongiorno. A tutti. Ha già giocato oggi? No, sto andando adesso, vado adesso. Perfetto. Quindi lei... stavo doppiando, non ho avuto il tempo di farlo. Quindi lei si iscrive alla categoria dei sognatori, che ha sentito quante possibilità di vincere? Una su 622 milioni e rotte. Sì, ma intanto io sto usando il metodo del regalo che funziona molto, cioè la mancia data a quello che ti aiuta a fare dei lavori, che minimo doveva essere, per dire, 10 euro, 20 euro, perché ti ha fatto... Invece gli regali 5 o 6 di queste cose è come se gliene avessi dati 100 euro. Dico, guarda, diventa milionario, prenditeli tutti tu, dico io, scherzando, a tutti il regalo, queste cose in giro. E poi se dovesse accadere a me, io lo faccio per gli altri. Quindi è bello è bello sapere uno che cosa ci fa con quei soldi. Di solito dicono tutti, io mi faccio viaggio, faccio questo, anche se io, nonostante la notorietà e cosa, ne avrei proprio bisogno, perché io ho sempre fatto la corsa al pasto, agli spaghetti, alla notorietà. Ci sono riuscito, ci sto riuscendo, ma non ho visto niente del mondo, quindi dovrei dire, se dovesse capitare a me, mi faccio un bel viaggione da quelli da grande crociera. Invece no, io ho fatto un calcolo approssimativo che se dovesse accadere a me la vincita, intanto voglio, d'accordo con l'UNICEF, dove sono ambasciatore, abbiamo fatto un conto rapido che andiamo a costruire, mi prendo una cinquantina di ingegneri bravi italiani, pagati bene ovviamente, e me li porto giovani in giro per l'Africa, e nell'arco di 3 mesi possiamo fare dai 200 ai 300 pozzi, quindi facciamo vedere anche come si fa a farli, a quelli, e intanto diamo dell'acqua. Poi mano a mano che passiamo, qui va bene un ospedale, qui va bene quello, qui va bene una scuola. È fantastico, ha già un piano di investimento. Hai voglia a fare cose. No, ha già un bel piano di investimento. Senta, ma lei, voglio dire, il nostro matematico Ennio Pérez, non è che rimproveri, però dica, sappiate che è così, poi uno se vuole può comprare il suo biglietto per il sogno. Lei li rimprovera gli italiani oppure no, è giusto sognare, sperare, certo che non diventi una malattia, questo è fondamentale. Non deve assolutamente diventare una malattia. Anche noi compravamo e vendevamo sogni quando io facevo lo spettacolo. I nostri sogni erano verbali, non c'era nessuna schedina, però seduti alla stazione con la valigia in attesa del treno, non avevamo i soldi per pagarlo e quindi ci facevano scendere ogni stazione, c'era il sogno, speriamo che un giorno vada a lavorare a Sistina, diceva uno, quell'altro io sogno di fare musical, ed erano sogni che ci vendevamo l'uno con l'altro, lì seduti nella stazione. Questi sono sogni che si pagano, si paga con la quota, però rimane sempre un sogno, come dice giustamente l'esperto. Certo, no, questo uno su centinaia e centinaia di migliaia, però uno dice perché non deve capitare proprio a me, può capitare proprio a me. Uno lo fa. Prima di concludere su questa cosa, di tornare al nostro matematico, ma ho scoperto, Lino Banfi, che lei ha girato un film e tra l'altro va, credo, in questi giorni in Germania. Sì. Ma mi hanno detto una cosa, che mi dica che è vero perché io non ci credo, che lei è andato e pensava di dover recitare in italiano, e invece è arrivato lì e ha scoperto che doveva recitare in tedesco. Lei fa la parte dell'emigrato italiano, è così? Sì, ma non solo è successo questo, io mi auguro che questo non arrivi all'orecchio di qualche bravo psichiatra, perché io ho rischiato di andare in manicomio. E forse rischio, perché pare che sia un successo annunciata la cosa. Io quando mi vidi questa delegazione alemanna venire a casa tutti alti 2 metri, lei farà un film con noi, noi siamo una grande distribuzione, una grande distribuzione vera questa, e io dico, sono onorato di entrare in un mercato nuovo, e dico, ho letto la storia in italiano che mi hanno fatto leggere. Dice, questo è un libro che ha venduto 1.800.000 copie in Germania, si chiama Maria Schwarzfa, non so come, che vuol dire Maria non gli piace. Di io glielo volevo, io infatti glielo volevo far leggere in tedesco, come Ihm schmeckt nicht. Sì, nicht, io non lo so pronunciare. Allora, mi dissero, viene benissimo, ti abbiamo scelto come protagonista, è un anno che ti seguiamo, abbiamo visto tutta la tua filmografia. In poche parole, io vado lì e credo di girare l'italiano. Questo mi fa, senti, perché non prova tu a fare questo? Non è difficile. E dico, vabbè, ma come faccio una lingua che non conosco assolutamente? Forse in francese, dico, 4 parole, ne so. Dice, no, proviamo con questo sistema di scrivere le battute per come si pronunciano, non certo, come certo. Si scrivono, e vedi se ci riesci. Quindi comincio questa lotta, forse perché sono in vista dell'andropausa, sono i miei 73 anni, la voglia di combattere, di vincere, cominciai a combattere con me stesso, ma perché non ci devo riuscire? Io ci devo riuscire la notte, il giorno. Questi ci presero gusto, insomma, in poche parole. Ce l'ha fatta. Ho fatto il film esce adesso, esce in 800 copie, pare che sia un successo, tutti mi capiscono. E Lino Banfi recita in tedesco, Lino Banfi. No, ma quando mi hanno mandato la copia in Italia, io l'ho vista con mia moglie mi fa, che stai dicendo? E che volone so che cosa, boh. non mi ricordo più ora neanche il significato. No, ma è arrivato all'orecchio di Berlusconi questa cosa, oh, mi ha fatto piacere, no, che mi ha chiamato, mi ha fatto gli auguri l'11, che era il mio compleanno, e poi mi ha detto: ho saputo sta cosa della Germania. Dico: Silvio, io sono un pazzo, però mi fa piacere farlo, quindi fammi conoscere la Merkel, gli ho detto simpaticamente. Io lasciamo stare Berlusconi, che con le telefonate Lino Banfi è meglio lasciarlo stare. Ah, però sì, vabbè, ma anche se intercettano questa roba, vabbè, non c'è niente di male. Io la ringrazio, mi devo fermare qui. Ringrazio Lino Banfi, che lo lascio andare a giocare la sua schedina del Superenalotto, così come Ennio Perez, che ci ha detto, e lo ripeto, che è una possibilità di vincere su 622.614.630. Se volete, giocate lo stesso, insomma. Magari è quella giusta. Ci fermiamo. Grazie a Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci troviamo domani.